Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Nella scienza succedono migliaia di cose, ma non c'è niente da fare. Prima o poi noi qua dobbiamo parlare di capelli. Eh sì, di capelli bianchi purtroppo. Vabbè, però sono capelli. E tra l'altro è un problema che ci coinvolge tutti. Sì. Benvenuti a Mebius, ascoltatrici e ascoltatori. Adesso i titoli e poi incominciamo dai capelli. Enrica questa settimana ci chiede: come mai i capelli si imbiancano partendo dalle tempie? Nascono così o scoloriscono con la crescita? Kakà e altri 90 calciatori di Serie A si sono sottoposti ad esperimenti per sviluppare metodi di allenamento più efficaci, ma anche per fornire nuove indicazioni sulle riabilitazioni cliniche. Breve manuale radiofonico per capire come si fa ad accertare che un farmaco non è acqua pura e serve a qualcosa. All'Università di Pavia, premiata la matematica che simula il mondo. Dunque, ci occupiamo di capelli perché è arrivata più di una domanda. Sì, ne sono arrivate più di una, esatto. Noi abbiamo scelto la portavoce Enrica, che adesso faremo sentire. E però, insomma, ricordiamo i nostri contatti. Come mandarci, sì, come mandarci le domande, come suggerirci dei temi. Allora, fatelo tramite la mail, che è mebius@radio24.it, ma anche... E poi c'è Facebook, però che trovate digitando Mebius Scienza. Sì, dovete fare molti like sulla pagina Mebius Scienza. E poi abbiamo il Twitter, che ormai ci seguite numerosissimi, si chiama Moebius_, quindi trattino basso, online. Ora direi che questo problema che c'è, Silla, del capello bianco, lasciamo la parola ad Enrica. La mia domanda è questa: come mai i capelli bianchi si imbiancano partendo dalle tempie? Nascono così o scoloriscono con la crescita? Grazie. Dunque, qui però noi abbiamo sentito, Enrica, lei ha anche questo strano sospetto, cioè che quando il capello è diventato bianco, però in realtà spunta nero e imbianchisce. Si imbianca sulla punta, deve essere una cosa così. No. Io tra l'altro ho anche qualche altra domandina da fare al nostro dermatologo tricologo, che è già stato nostro ospite, quindi diamo il benvenuto a Fabio Rinaldi. Buonasera, dottore. Buonasera. Niente, da cosa partiamo? Partiamo dal come mai imbiancano dalle tempie, che poi è vero. Sì, abbastanza vero. È una delle prime zone dove i melanociti, che sono le cellule del capello all'interno del bulbo che fanno il colore, cominciano a lavorare meno e quindi, non facendo più il colore, il capello diventa bianco. Normalmente dalle tempie, esattamente come, e questa è una progressione di età di solito, di invecchiamento, che può essere più o meno precoce, ma esattamente come i capelli tendono a cambiare con l'età, proprio dalle tempie o dalle basette, che diventano un po' più ricce man mano che l'età va avanti. È una strana situazione genetica per cui cambia la struttura per una modificazione del bulbo con gli anni che passano. Cioè non c'è una ragione particolare, nel senso che lì le cellule hanno questo messaggio. In realtà, esatto, c'è sicuramente una ragione particolare, ed è una ragione di stimoli e di messaggi cellulari di cambiamento proprio della struttura, quindi evidentemente è proprio una prefigurazione quasi genetica, si chiama espressione genica, cambia così, quindi... però è caratterizzato con l'età. Questo fenomeno si manifesta ad età diverse, ovviamente dipendenti dalla persona. Ovviamente sì, nella media i capelli cominciano a diventare intorno ai 35-40 anni in su, qualcuno addirittura anche molto più tardi, perché qui c'è proprio una, chiamiamola, predisposizione, un come si è fatti, per cui le cellule sono più resistenti e resistono di più a questi fattori di crescita che danno l'attività e quindi più avanti. Però anche senza nessuna patologia ci sono delle persone giovanissime che a 20 anni hanno già i capelli bianchi. Non è una patologia, è proprio un modo di essere. Sì. Al di là del fatto che invece ogni tanto, quando è così precoce, vale la pena andare dal dermatologo, perché in realtà potrebbe esserci qualcosa che non va, che sta dando questo tipo di problema. Prima di tutti la vitiligine, per dire, quindi potrebbero essere bianchi perché c'è una malattia che sta creando questo problema. Ecco, passiamo alla seconda. Diventano bianchi dal bulbo o dalla punta? Ma non è vero, come mai? Assolutamente dal bulbo. La punta non sbianca, perché ormai la punta è una struttura, cioè il fusto del capello una struttura morta, quindi quello che è vero che può cambiare se succede, si sa che per esempio dopo l'estate i capelli diventano più biondi, addirittura quasi chiari, perché il sole cambia la melanina già formata nel fusto e li fa cambiare, ma i capelli diventano bianchi dal bulbo, cioè il bulbo del capello è come un aereo che ha tre motori che devono andare tutti insieme. Ogni tanto uno di questi motori, che è il melanocita, non funziona, e allora il bulbo fa il capello bianco, ma parte dal basso. Senta, ma in generale il capello bianco deve essere considerato un indebolimento oppure è un meccanismo che a un certo punto, dopo un tot di anni, scatta? In realtà possono essere robusti esattamente come gli altri tecnicamente, perché ci sono delle persone che hanno dei capelli bianchi con un fusto perfetto, bellissimo. In realtà, da un punto di vista scientifico, lo consideriamo un indebolimento, cioè quello che dicevo prima, è un gruppo di cellule che funziona meno e quindi non lavora più. Questo non implica per forza che stia succedendo qualcosa di male, ma il fatto che sia collegato di solito all'invecchiamento è perché queste cellule cominciano a lavorare un po' di meno, insomma. Certo. Tant'è vero che quando si curano, adesso con le nuove cure, per esempio con i fattori di crescita, magari destinate per curare o la pelle o i capelli, una delle cose che si nota subito è che i capelli tendono per lo più a ridiventare scuri, cioè si riaccende il melanocita, insomma. E anche il mio gatto adesso presenta alcuni capelli bianchi. I baffetti. Così. Ecco, però diventano bianchi, non diventano rossi, no? Invecchiando i capelli hanno quel colore lì. Mi domando, potevano essere blu, rossi? Sono bianchi, perché quella cellula lì che fa il colore, che poi se uno rosso, marrone, verde, quel che no, non funziona ma più. È normale, quando non lavora più non fa più il colore, quindi per forza sono bianchi. Ah. Dottore, mito da sfatare o da confermare? Allora, cresce il capello bianco, soprattutto nelle donne, insomma, che magari è un po' antiestetico all'inizio quando sono giovani come me, si strappano. Però il parrucchiere dice no, mai strapparlo, ne ricrescono 7 o 10 addirittura nello stesso punto. Confermiamo o sfatiamo? No, sfatiamo, nel senso che è chiaro che se le strappano un capello bianco, se si strappa un capello bianco, quello lì, siccome rimane sotto la cellula staminale, quella da cui rinasce il capello, ricresce un capello bianco, quindi ne ha tolto uno bianco e grazie a Dio ne ricresce un altro che è bianco. Non è però che si è tolto quello lì bianco intorno, o ne crescono nuovi 10 bianchi o gli altri diventano bianchi. Prima, perché se ne crescessero nuovi 10 bianchi saremmo tutti qui a strapparci e saremmo pieni, quelli tingiamo e saremmo felici. Sì. Ma in realtà è perché no, quel capello è diventato bianco ed è vero che se lo strappa rinasce bianco, perché nasce sempre lui. Ne è vero che si rafforzano tagliandoli? Non è vero. Se si radono proprio come per fare la barba, man mano che crescono nei primi giorni sono più spessi perché il fusto è più grosso, ma poi man mano che la fase di crescita di capelli normali continua, sono esattamente quelli di prima. Però scusi, da salute. Scusi, adesso ne approfitto. Le doppie punte? Questo è un altro discorso. Dicevamo prima che il fusto è tutta morta, per cui è chiaro che col passare del tempo, col sole, con gli inquinamenti eccetera, tende a rovinarsi e quindi per esempio a rompersi, a fare le doppie punte. Allora deve tagliare quei punti rovinati, perché se no si rovinano sempre di più. Bene, speriamo Enrica sia soddisfatta, così anche gli altri ascoltatori. Grazie dottore, allora ci risentiamo al prossimo quesito tricologico. Arriva senz'altro. Grazie a voi. Buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. L'ultima volta che ci siamo occupati di calcio qui a Mebius era però per capire come i palloni dal punto di vista fisico ruotano nell'aria. Qui invece adesso è una cosa molto più seria. Qui è una cosa molto più seria, molto più seria senz'altro, ma anche molto molto interessante ugualmente alla anche per il lato sportivo. Devo dire proprio di sì, perché vabbè, come nei titoli abbiamo introdotto che insomma ci sono 90 calciatori della nostra Serie A che si sono sottoposti a degli esperimenti. E ora chiaramente noi abbiamo subito invitato in redazione colui che questi esperimenti un po' li ha fatti, li ha eseguiti insieme a un'equipe di cui adesso ci parlerà, e quindi direi di non introdurre nient'altro. Esatto, diamo il benvenuto a Stefano Mazzoleni. Intanto benvenuto a Mebius. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Lei è ingegnere dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ultimamente la stiamo sentendo molto su diversi fronti. Esatto. Lei insieme ad un'equipe di altri ricercatori e anche di clinici ha fatto questo studio particolare, che ha fatto un po' parlare soprattutto dal punto di vista della comunità scientifica, perché ha coinvolto personaggi che insomma famosi lo sono, perché uno su tutti è Kakà, insomma. È vero, questo studio è uno studio scientifico sulle prestazioni atletiche, appunto come dicevate giustamente, di giocatori di calcio di Serie A, tra le più importanti società di calcio della Serie A italiana, ed è uno studio svolto in collaborazione con il centro di svezzamento e la riabilitazione respiratoria del Auxilium Vitae, che è un centro di riabilitazione che si trova a Volterra, e il nostro laboratorio di bioingegneria della riabilitazione è proprio formato da bioingegneri e da medici, in questo caso pneumologi. L'obiettivo di questo studio è stato... Gli pneumologi sono i medici, diciamo, che si occupano dei polmoni, della respirazione. Esatto, proprio così, sono i medici specializzati riguardo al sistema respiratorio. E noi abbiamo avuto questa intuizione, insieme con i medici, di fare uno studio per individuare i parametri di risposta metabolica, cardiovascolare e soprattutto, questa è l'innovatività dello studio, la risposta respiratoria in un gruppo di 90 calciatori di Serie A, e abbiamo avuto dei risultati piuttosto interessanti. Ce ne può dire qualcuno? Ce ne sono di famosi come ad esempio Kakà o Matri del Milan, e poi abbiamo anche coinvolto squadre importanti come la Fiorentina, il Palermo, il Lecce, il Genova e il Napoli. Vabbè, quindi... quindi più di così. Il top. Il top, possiamo dire il top. Infatti noi nel nostro studio ci allineiamo nella casistica dei top player, atleti al massimo livello. E che cosa avete fatto fare loro? Abbiamo fatto fare un test da sforzo massimale sul treadmill, sul tapirulan, cioè li abbiamo messi a correre a partire da 8 km all'ora e abbiamo incrementato un chilometro all'ora ogni minuto, fino a che non si esaurivano. Fino a quando? All'esaurimento, diciamo, fisico, diciamo così. E sono talmente allenati che li avete portati allo strenuo quando andavano? E fino a che velocità? Loro sono in grado di arrivare fino a 20 km all'ora. Perfetto. Però. Correndo sul treadmill. E facendo questo tipo di esercizio abbiamo scoperto delle cose interessanti. Abbiamo evidenziato il ruolo centrale dei parametri ventilatori. Questi parametri di respirazione che risultano essere dei fattori determinanti e predittivi alla massima tolleranza all'esercizio fisico. Quindi abbiamo testato le loro capacità al massimo livello. E che cosa vuol dire esattamente? Che li fermate, li fate ripartire? Si fermano loro, cioè quando loro non ce la fanno più alzano il braccio e noi fermiamo l'esercizio. Esatto, poi pagate dei danni immensi alla società. Le mie informazioni calcistiche infatti mi dicono che Kakà è fuori da un po' di tempo. Non è colpa nostra. Non è colpa nostra. Quando si fermano voi dite questo è il top, e ci possono essere differenze fra diversi calciatori. Esatto, ma la cosa interessante è che mentre loro corrono noi facciamo delle misurazioni, ecco questo è il punto, dal punto di vista scientifico e clinico noi effettuiamo delle misure. Ecco, quali parametri avete rilevato infatti? I parametri fondamentali che abbiamo rilevato è che tutti gli atleti utilizzano totalmente la propria riserva cardiaca, quindi chiaramente misuriamo la capacità cardiaca, però sfruttano solamente l'80% della propria riserva ventilatoria, e questo direi che è il punto cardine dello studio. Allora, se abbiamo capito bene, il cuore lo sfruttano al massimo, hanno un cuore molto allenato, invece potrebbero fare ancora, hanno un 20% di miglioramento dal punto di vista dei polmoni, della capacità polmonare? Proprio così, è questo il risultato che noi lanciamo ai preparatori atletici e agli allenatori per modificare le proprie tecniche di allenamento. E questo il nostro messaggio principale che emerge dallo studio, quello dei parametri ventilatori che al momento sono poco studiati nei giocatori professionisti, e quello di poter utilizzare questo residuo di risposta di riserva ventilatoria per ottimizzare lo sforzo. Questo è quello che noi ipotizziamo. Chiaramente ora entrano in gioco i preparatori atletici, perché in effetti noi abbiamo evidenziato nel nostro studio come non ci sia differenza tra i vari ruoli. Vi siete preoccupati di differenziare i calciatori suddividendoli, classificandoli per ruolo, ad esempio quelli che corrono di più o sulle fasce? Li abbiamo suddivisi con questi quattro ruoli: attaccanti, centrocampisti centrali, difensori centrali e i ruoli laterali, intendendo con ruoli laterali sia i difensori che i centrocampisti. Quelli che corrono, sulle famose fasce, come diceva. Però volevo chiedere una cosa. Voi li portate con questi esperimenti al massimo. Allora, non potrebbe essere che quella riserva polmonare sia anche quella che consente di reggere gli sforzi, l'affaticamento per tutta una partita, perché di non collassare anche. Se vanno al massimo, magari poi però dopo 30 minuti sono da sostituire, no? Sì, diciamo, in effetti questo è un risultato, come dire, che noi mettiamo a disposizione dei preparatori atletici e degli altri ricercatori, perché fondamentalmente noi crediamo questo un primo studio che ci dovrebbe permettere poi di affrontare degli studi, come stiamo facendo attualmente, diciamo, di maggior respiro, intendo dire. In questo caso abbiamo fatto una fotografia dei giocatori di Serie A durante la stagione agonistica. Ora noi stiamo effettuando uno studio, sempre con gli stessi giocatori, con le stesse squadre, però facendo un confronto tra prima dell'allenamento, prima della stagione, diciamo, agonistica, e durante la stagione agonistica. Quindi in questo caso i risultati che noi pensiamo di ottenere possano, come dire, delucidare meglio, portare a, come dire, a compimento questo primo studio e farci capire un pochino meglio come in effetti possa essere e se può essere sfruttata questo 20% di riserva ventilatoria. Sì. Io volevo capire una cosa: una persona normale, quanto invece in uno sforzo di questo genere gli rimane come riserva? Cioè, in realtà noi forse sfruttiamo molto meno la nostra capacità, noi persone normali intendo. Sicuramente, diciamo, noi normalmente non siamo chiamati, no, a fare questi sforzi così massimali, così eccessivi. Quindi loro sono già, appunto, come dicevate giustamente, già allenati, no, per avere, come dire, capacità di resistere a uno sforzo massimale. Perché noi studiamo questi atleti? Perché appunto loro sono, come dire, un riferimento, un modello di atleti al massimo livello, già allenati, e quindi se noi riusciamo a scoprire qualcosa, diciamo, dal punto di vista dell'ottimizzazione dell'allenamento per loro, è possibile poi ripercuotere questi risultati anche, diciamo, su persone, possiamo dire, più normali. Ecco, questo è infatti un po' il punto, perché non siete un centro di medicina dello sport, ma bensì, come diceva lei all'inizio, di riabilitazione. Quindi forse queste informazioni su questi modelli, tra virgolette, umani che noi abbiamo, ci possono dare informazioni su, però allora volevamo capire da che punto di vista, sulle riabilitazioni cliniche verso ad esempio pazienti che possono avere problemi respiratori? Beh, noi siamo attivi in questo settore, no? In effetti i nostri studi nascono nell'ambito della riabilitazione respiratoria. Noi abbiamo a che fare durante le nostre attività quotidiane con persone affette da patologie respiratorie anche gravi, addirittura con persone che hanno necessità di essere ventilati con macchine, con ventilatori meccanici, per alcuni purtroppo anche per tutta la giornata. E quindi, diciamo, in effetti questi studi sono un po' di nicchia perché riguardano atleti in ottime condizioni. Però in effetti lo studio del sistema respiratorio è ancora non molto esplorato, soprattutto dal punto di vista della medicina e dello sport. È quello che noi volevamo lanciare, una sorta di provocazione. Siccome al momento i parametri maggiormente utilizzati sono quelli cardiaci, quelli muscolari, la parte respiratoria è rimasta un po' come una sorta di Cenerentola. Poi in ombra. In ombra, in sordina. Quindi in effetti c'è questo collegamento tra routine clinica, quindi con un esame di spirometria, e analisi delle prestazioni fisiche di calciatori di alto livello. Di questi quindi che una sono sorta ad alto di livello. Passaggio tra la riabilitazione clinica e la medicina dello sport. Sì. Quindi ci sono più livelli di interesse, secondo noi. Sì, fra l'altro questi calciatori, questi sportivi, imparano anche a respirare in un certo modo per avere quelle rese, diciamo, quindi sono questo costretti, no, per reggere questi livelli a dover gestire la loro parte respiratoria. Però in effetti il messaggio che vogliamo lanciare è sul eventualmente modificare le metodiche di allenamento per ottimizzare la risposta ventilatoria. Sì. Perché l'attenzione, almeno questo che è quello che abbiamo visto dai nostri contatti con le squadre e soprattutto dalla letteratura, appunto la risposta ventilatoria è ancora non tenuta in debita considerazione. Quello che noi lanciamo con il nostro studio è: attenzione, se si fa un monitoraggio costante dei parametri ventilatori, si può anche tentare di ipotizzare una modifica delle metodiche di allenamento per ottimizzare gli sforzi e le prestazioni di questi atleti. Ecco, infatti i risultati del vostro studio a questo punto, diciamo, si trovano davanti a un bivio: uno, nell'ottimizzare appunto l'allenamento di questi professionisti che forse potrebbero essere differenziati anche da ruolo a ruolo, intendo gli allenamenti, nel senso che vi vengono dei dati abbastanza uniformi che invece potrebbero essere differenziati, e poi dall'altro quello che ci ha spiegato benissimo sulla parte clinica legata a, insomma, alle persone più normali, meno allenate. È così. Noi lanciamo questa sorta di provocazione, ecco, nei confronti anche dei preparatori atletici di queste squadre, per vedere se riusciamo a, come dire, a trovare anche un collegamento tra ricerca scientifica e applicazione diretta per lo sport. Ecco, lo studio sta andando avanti in questa stagione, voi state continuando a prendere i parametri, quindi verrà fuori qualcosa a fine anno ancora? Certo, dobbiamo attendere, diciamo, di concludere le sessioni di registrazione che stanno avvenendo proprio in questi giorni, e questo studio metterà a confronto i giocatori prima che loro si fossero allenati e dopo l'allenamento. A differenza dello studio di cui stiamo parlando, che invece è una fotografia secca, diciamo, delle prestazioni atletiche di questi giocatori, saremo in grado di mettere a confronto i giocatori, ciascun giocatore, prima e dopo la preparazione atletica. Bene, Mazzoleni, allora ci risentiamo sicuramente, aspettiamo quando i risultati. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dunque, Chiara, mi hai detto forfora di polpo, rarissima. Rarissima. Tritato di carica batterie per cellulari. Sì. Tritato di tritone. Sì. Succo di mirtillo con grasso di foca. E sì, mescolare il tutto. Forno, microonde. E poi giù, bere. Poi giù. Funziona benissimo. Cioè hai delle grandi soddisfazioni. Ho delle grandi soddisfazioni, è una cura micidiale per il prurito alle orecchie. Per il prurito alle orecchie. Va bene, allora di questa cosa magari ne trattiamo un po' fuori onda. Preferisci parlarne dopo? Sì. Va bene. E invece salutiamo subito Gilberto Corbellini. Buonasera Gilberto. Buonasera. Ti diamo del tu perché tu insegni storia e medicina alla Sapienza di Roma, però sei ormai un commentatore di cose, di scienza e in particolare di cose che riguardano tutto il settore biomedico. Su un domenicale del Sole 24 Ore di un paio di settimane fa, tu hai scritto un articolo dicendo forse è arrivato il momento di spiegare come si fanno quelle verifiche sulla validità dei farmaci. Dicevi anche che ci sono state delle inchieste su quanto il pubblico sa di queste cose. Beh, che il tutto è nato, forse è il caso di ricordarlo, anche dal caso Stamina. Sì, certo. Esatto, da una nostra chiacchierata con Corbellini di qualche settimana fa. È ovvio che siamo intorno a questa vicenda, però c'è questo elemento in più, cioè adesso finalmente proviamo a spiegare, piccolo breve manualetto radiofonico, come si fanno questi trial. E tu dicevi in quell'articolo che qual è il livello di conoscenza per il largo pubblico? Quello che ha rilevato l'OCSE anche ieri, cioè in Italia, e lo si sapeva da oltre 10 anni, la percentuale di cittadini che sono in grado di capire come si accerta l'efficacia di un farmaco è intorno e quasi sicuramente al di sotto del 25%. Teniamo conto che in Norvegia lo stesso sondaggio ha rilevato che quasi il 70% dei cittadini sa in che modo si stabilisce l'efficacia di un trattamento medico. E questa è davvero... 55, in Olanda sempre sul 55, e questo è veramente un vero spread. Più che... sì. Stiamo parlando di come si stabilisce quando qualcuno dice guardate che secondo me questo tipo di trattamento, che può essere un trattamento chirurgico, un principio attivo, guardate che secondo me cura la tale malattia. Esatto. O migliora la tale condizione clinica. Mm. Allora che cosa si fa? Sostanzialmente si fanno degli studi preclinici, quindi si fanno esperimenti su o in vitro o su modelli animali, e quasi sicuramente se poi si deve andare sull'uomo si fa su modelli animali, dopodiché una volta fatta la sperimentazione al laboratorio si deve andare a controllare che questo principio funzioni, e siccome non si può fare la sperimentazione sull'uomo allo stesso modo in cui la si fa sui topi, bisogna in qualche modo organizzare delle sperimentazioni cliniche. Mm. E le sperimentazioni cliniche hanno una storia piuttosto antica, ma noi facciamola semplice. Le sperimentazioni cliniche in fondo vengono concettualizzate in modo quasi definitivo dopo la Seconda Guerra Mondiale, e consistono nel far giocare il caso, cioè quindi nell'usare il caso e la statistica per dimostrare che che un certo trattamento, cioè quel trattamento che non interessava, fa qualcosa, cioè è diverso dal nulla, è diverso dal far nulla, fa qualcosa di più del non far nulla. Spiegaci un po' come che si usa il caso. Questo lo si fa, diciamo, creando dei gruppi, cioè un gruppo, e selezionandoli, come dire, in modo casuale, cioè non ci deve essere una selezione da parte del medico, il quale dice: io a te ti do il trattamento, a te non te lo do, eccetera. I gruppi che saranno uno trattato con quell'ipotetica cura e l'altro invece trattato con niente o con il cosiddetto placebo, questi due gruppi devono essere costruiti facendo entrare in gioco il caso e non scegliendoli intenzionalmente, perché se li scegliamo intenzionalmente, noi lo sappiamo da secoli, che introdurremo dei bias, cioè noi faremo delle scelte che andranno nella direzione di farci ottenere il risultato che vogliamo. Se vogliamo che funzioni, faremo vedere che funziona, se vogliamo che non funzioni, faremo vedere che non funziona. Dopodiché, non solo, diciamo, il caso deve essere in gioco per costruire i gruppi, quello trattato e quello di controllo, ma bisogna anche mascherare, cioè impedire a chi poi darà il trattamento e anche a chi lo riceve di sapere se ha ricevuto il trattamento, ovvero se ha ricevuto il placebo o niente. Quindi lo sperimentatore ha delle boccette nelle quali non sa se c'è il farmaco oppure l'acqua. È tutto lasciato alla casualità. Esatto, si chiama in cieco. Trial clinici randomizzati in doppio cieco, cioè quindi è cieco lo sperimentatore ed è cieco il paziente, la persona che riceve il trattamento. In questo modo noi abbiamo la possibilità di elaborare statisticamente questi dati e sicuramente otterremo una risposta, soprattutto se i numeri sono alti, perché non possiamo farlo su tre persone, quattro, perché a quel punto diventa anche un problema dare significatività statistica a questi numeri. Cioè esiste la legge dei grandi numeri, che è studiata dai matematici, e quindi quanto più noi lanciamo una moneta, quante più volte noi lanciamo una moneta in aria, tante più volte, se le caratteristiche fisiche di questa moneta sono di un certo tipo, verificheremo che la probabilità che venga testa o croce è per ciascuna del 50%. Se lo lanciamo tre volte avremo un risultato. Potremmo avere anche tre volte testa, certo. Esattamente, potremmo avere anche tre volte testa. Se la lanciamo 200 volte avremo molto probabilmente 100 volte testa e 100 volte croce, più o meno. Quindi questo è quello che si fa nella sperimentazione clinica. Quindi anche quando si dice da parte delle mamme, dei politici, eccetera, ma venite a vedere questi bambini che stanno meglio. Ma cosa vuol dire venite a vedere? Queste tipo di osservazioni sono precisamente quelle che vanno evitate, perché confonderanno e non consentiranno di stabilire se davvero quel trattamento è efficace o no. Torniamo all'aneddotica, cioè a qualcosa che persino, diciamo, che ne so, Van Helmont piuttosto che Lavoisier o Franklin, cioè, avevano capito secoli fa. E poi ci è voluto del tempo per introdurre queste cose. Beh, poi, come diceva prima, in questo caso appunto viene influenzato, nel senso che si fanno notizia, si mostrano quelle che funzionano, certo, e non sappiamo in realtà quante siano quelle che non funzionano. Ma poi funziona cosa? Perché se noi andiamo a vedere questi video che sono in rete di questi bambini, sono una cosa vergognosa, cioè queste persone andrebbero denunciate, inclusi i genitori, secondo me, dei genitori che mettono e dicono che i loro figli stanno meglio sulla base di queste osservazioni empiriche, sono genitori che veramente non fanno il migliore interesse dei loro figli. Certo, lì giocano tutti gli aspetti umani, emotivi. Volevo chiederle di sottolineare un attimo un aspetto ancora precedente, cioè quando noi all'inizio in maniera giocosa abbiamo fatto l'esempio del prurito, ecco, quando, in quale momento, come si seleziona una cura che è inutile, che non serve a niente, e invece una cura che in effetti potrebbe essere veramente utile ed efficace? Come si passa al trial? Io vorrei aggiungere questo, perché l'abbiamo fatto in modo divertito, però non è vero, no, che se qui la mia amica Chiara avesse una effettivamente pozione, che è precluso a priori, la scienza accetta la proposta, assolutamente, no? Assolutamente. Perché molti dicono ma certo, no, se uno non è nel grande centro di ricerca. Questo passaggio dipende dalla plausibilità scientifica, cioè esiste esiste un razionale scientifico, esiste una plausibilità per cui usare un certo principio attivo possa effettivamente risultare di qualche utilità per quella condizione clinica, che deve essere una condizione clinica ben definita, la dobbiamo trovare sui manuali, deve essere stata descritta dalla comunità medica, eccetera. C'è una plausibilità biologica, abbiamo delle indicazioni di laboratorio su modelli animali, se sì, si va direttamente alla sperimentazione. Quindi non ci sono porte chiuse. Chi presenta una sua proposta deve seguire una prassi e poi si va a vedere. Gli staminali mesenchimali nel mondo sono largamente sperimentate, certo. Ma stiamo scherzando, il problema non è gli staminali mesenchimali, il problema è stamina, cioè abbiamo a che fare con dei signori che non conoscono la biologia e pretendono di curare delle malattie. Senti, un'altra domanda però, tu all'inizio hai detto c'è la prima fase che è quella sugli animali, sì. Allora anche qui spendiamo due parole, perché molta gente dice, vabbè, certo, facciamo l'sperimentazione funziona su animale, sul ma topolino. Poi magari sull'uomo invece potrebbe funzionare, l'animale ci dà delle indicazioni sbagliate. Qui c'è tutta una storia della relazione, no, fra la sperimentazione sull'animale e poi umano. Ma questo è ovvio, cioè non è che i clinici e i biologi sono stupidi, cioè il modello animale o la risposta dell'animale dà un'indicazione generale che poi rispetto alla quale diciamo ci si muoverà anche sul piano clinico. È chiaro che se uno ha delle prove, delle indicazioni in vitro o delle visioni teoriche sull'animale non succede niente, può anche essere, e lo si può magari trovare, che l'animale non sia un buon modello per quella malattia, e allora si può fare qualche prova sull'uomo, su dei volontari in certe condizioni, e questo lo si può fare. Oppure se nell'animale diciamo ci sono grandi indicazioni che dà buoni risultati, però poi bisogna sempre stare attento perché magari nell'uomo produce una tossicità, ci si deve chiarire se è prima di tutto dannoso o meno, perché ci sono state delle storie veramente drammatiche, insomma, per il fatto che non si è tenuto conto di questo problema. È uno step fondamentale. Animale, si torna a vedere i bambini morire, e si torna e si vedranno le persone diciamo in gravi condizioni di salute che non potranno permettersi dei farmaci che saranno sviluppati altrove, perché noi qui non potremo fare più la sperimentazione animale. Chiarissimo. Gilberto, veloci in conclusione ma su tutt'altro. Scheckman, Rothman e Studhoff, i tre premi Nobel alla medicina. Cos'è questa cellule postale? Diciamo sono ricerche formidabili che sono durate una ventina d'anni e poi hanno dato i risultati più importanti fine anni 80 e anni 90, e cioè lo studio del modo in cui le proteine vengono trasportate all'interno di una cellula da un posto all'altro per trasferire i segnali, e quindi per trasferire in un certo posto dove è necessario la proteina che serve per svolgere la funzione biologica. E questo sistema di trasporto e di segnalazione è fondamentale, perché praticamente possiamo dirlo, tutte le malattie complesse hanno a che fare con questo tipo di dei difetti o con delle disfunzioni a livello di questo processo. Anche perché poi noi facciamo fatica a concettualizzare, ma guardate che la cellula è uno spazio che noi neanche riusciamo a immaginare, in termini è un universo di immenso, ma lì dentro accadono fisicamente di un'efficienza delle cose spettacolari, insomma, di un'efficienza, di un'organizzazione, che il traffico nelle nostre città è una roba del tutto caotica, insomma, rispetto a quel che si riesce a fare lì. Infatti a questo proposito ci tocca andare a sentire annunciando il traffico, ti salutiamo. Grazie Gilberto. Okay. Grazie, buon lavoro. Grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ogni tanto a Mebius parliamo di matematica, non è facile parlare di matematica per radio, però la matematica è un grande universo pieno di suggestione e di fascino, e appena si può fare cerchiamo di farlo, ed è così oggi. I miei due ospiti sono Alfio Quarteroni, buonasera Quarteroni. Buonasera. Del Politecnico di Milano, e Annalisa Buffa dell'Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche del CNR di Pavia. Buonasera Buffa. Salve, buonasera. Tutte e due premiate da un importante premio che viene dato ogni anno dal prestigioso Istituto Ghisleri, Collegio Ghisleri. di Pavia. Il premio viene dato alle discipline più diverse e quest'anno è stata scelta la matematica. Ad Alfio Quarteroni è stato dato un premio alla carriera, perché Quarteroni effettivamente lei ha fatto un sacco di cose in quella che è la matematica per la simulazione del mondo, perché a questo punto, certo, magari è un po' esagerato dirla così, ma neanche tanto, perché questi strumenti di simulazione della realtà, dei fenomeni, stanno veramente entrando con grande successo nelle più diverse attività di applicazioni. Lei col suo gruppo, per esempio, avete raggiunto davvero una fama mondiale per aver lavorato alla simulazione di tutte le dinamiche delle barche di Coppa America e anche di Alinghi, no? Che poi ha vinto ben due edizioni della Coppa. Però lavorate anche in campo medico, per esempio, no? Sì, beh, oggi, come sa, i modelli matematici hanno la pretesa di applicarsi a quasi ogni ambito del sapere, quindi l'ingegneria, lo sport, lo studio dei fenomeni di scienze della vita, sostanzialmente, la medicina, la biologia e certo, gli altri. L'efficienza di questi strumenti è arrivata al punto di inserire, diciamo così, nel software, per esempio, la fisica di una realtà che certo sta fuori, no? Che la conosciamo, per esempio delle strutture che devono subire delle pressioni, sono soggette a delle forze che ci sono nella realtà. Tipicamente per decenni cosa si è fatto? Si sono creati dei modelli fisici sui quali lavorare. Adesso c'è una possibilità di utilizzare del software che ingloba, no? Le forze che ci sono in realtà e sul monitor ci restituisce quello che può succedere al di fuori. Tra l'altro questo genera anche nella sperimentazione dei notevoli risparmi di costi. Allora le chiedo, Quarteroni, se guardiamo un po' avanti, dove diavolo può arrivare questa capacità di simulazione del reale? Oggi si riesce a simulare piuttosto bene, in maniera accurata, fenomeni che fino a pochi anni fa sarebbero stati impensabili. E sono tipicamente i fenomeni nei quali esiste una, come dire, una legge di comportamento dei principi primi, mm-hmm, che sono tipicamente espressi da leggi fisiche, leggi di conservazione, leggi di equilibrio di forze, e in questi casi la matematica si inserisce perfettamente, perché traduce questi principi in equazioni. Le equazioni sono complicatissime, però oggi si sanno dominare molto bene sia a livello analitico che a livello di approssimazione, e poi ci sono i computer che diventano sempre più performanti e potenti, quindi si arriva alla soluzione e renderla poi disponibile all'ingegnere, al fisico, al chimico, al medico, in modo piuttosto evidente. Naturalmente più si mangia più si ha voglia di mangiarla, perché viene mangiando anche nelle scienze, per cui a questo punto il fronte dell'interesse è spostato più in là. Vorrei dire che oggi si cerca soprattutto di attaccare quelli che si chiamano i problemi multiscala o scala multipla, quelli per i quali le soluzioni, che sono delle grandezze fisiche, pressioni, velocità, densità, energie, variano molto rapidamente sia in spazio sia in tempo e in maniera molto diversa. Non so, faccio un esempio per tutti. Si pensa al comportamento del cuore, il cuore umano, in cui ci sono almeno tre campi diversi, come il campo elettrico che evidentemente stimola l'onda a propagarsi, quindi c'è un fronte d'onda che avanza ad una velocità rapidissima. Questo fa sì che le fibre si deformino, che questo porta naturalmente alla contrazione. La contrazione del ventricolo porta all'espulsione del sangue e poi alla successiva dilatazione. Ci sono tre fenomeni, quello elettrico, quello meccanico, quello fluido, che vivono in scale di tempi e di spazio completamente diversi. Questi sono problemi non ancora risolti in maniera efficiente e completa, ma sono problemi sui quali tutti gli scienziati matematici applicati stanno in qualche maniera cercando di far avanzare a livello di conoscenza. Poi se si va effettivamente, sempre pensando nell'esempio del cuore, se si va a livello del comportamento delle singole cellule, naturalmente si va ad un comportamento di nanoscala e si va a vedere come la biologia e la chimica entrano in gioco, e a questo punto qui il mondo diventa molto più complesso per un matematico. Mancano i principi primi, vanno scoperti, vanno inventati, vanno trovati. I modelli possono ancora aiutare, la matematica può ancora aiutare, perché ovviamente il ruolo primario lì è quello del biologo, è quello del genetista, per esempio, ma oggi, come sappiamo, c'è una quantità strepitosa di dati che vengono generati, e questi dati vanno capiti, vanno dominati, vanno sintetizzati. Si usano modelli matematici sofisticati per sintetizzare i dati, per capirli meglio. In un certo senso le chiedo, abbiamo per esempio tantissimi dati che, se li mettiamo lì, sono a lavagna, andiamo in grandissima confusione, quindi vanno maneggiati in altro modo. Abbiamo una complessità sulla quale agire che è veramente densa. A questo punto la matematica è qualcosa che ci lancia dei segnali su quale può essere la forma di quella realtà che non conosciamo, della quale non abbiamo ancora i principi, e questo cosa fa? Può guidare alla costruzione, all'interpretazione corretta di quella realtà. Assolutamente, direi che questa è veramente matematica sperimentale, così come si sperimenta nei laboratori. È una matematica sperimentale perché, diciamo, abbandona l'ambito perfetto per i matematici, quello a cui facevamo riferimento prima, in cui ci sono le equazioni comprese, capite, e da lì in poi tutto diventa governabile, matematicamente parlando. Si abbandona quella bellissima certezza, è un mondo molto più incerto, un mondo in cui bisogna quantificare l'incertezza, bisogna rendere disponibili dei modelli che permettano di creare una dinamica, di studiare la dinamica dell'incertezza stessa e dare degli input ai medici, dare degli input ai biologi, perché ogni volta che si scopre una struttura nascosta, ogni volta che si scopre un comportamento razionale, beh, questa è un'informazione fondamentale che può ancora guidare il biologo, il medico, lo sperimentale a vedere meglio, a fare meglio il suo lavoro di sperimentale. Quarteroni, adesso passo invece a Annalisa Buffa, perché nella sua attività c'è al centro questo discorso su come maneggiare le approssimazioni. Lo strumento della matematica quando produce approssimazione del reale è un dato fondamentale. Approssimazione non vuol dire, insomma, andare così un po' a braccio e intuire. Stiamo parlando di una capacità di approssimare molto efficientemente la realtà. Lei al premio Ghisleri ha fatto una relazione che ha un titolo molto stimolante. Quale? Matematica computazionale e rappresentazioni imperfette della realtà. Eccola qua, l'imperfetto. Lei, Buffa, è un po', mi viene in mente quel film Ghostbuster, dove vengono chiamati un team perché appaiono dei fantasmi ora qui, ora là. Lei praticamente fa tutto un lavoro di ricerca, no, teorica, di base, su come si devono fare le approssimazioni con la matematica. E poi improvvisamente la chiamano sul campo perché c'è qualche approssimazione che non funziona. Sì, esatto. Diciamo che il mio lavoro si rivolge in qualche senso a creare, a fornire delle garanzie che i calcoli che vengono eseguiti e che quindi sono di fatto di supporto per la progettazione oggi, come ci ha spiegato Alfio, siano effettivamente corretti. E quando capita che alcuni calcoli, che alcune simulazioni non riescono a essere portate a termine perché in qualche modo il modello fisico è troppo complicato o troppo mal posto per portare a termine il calcolo o la simulazione, intervengono le persone come me che cercano di studiare la struttura matematica e di utilizzare le conoscenze matematiche per migliorare in maniera fondamentale che sia la performance di una simulazione piuttosto che effettivamente la possibilità di fare un calcolo corretto. Quindi lei individua il pezzo rotto, guasto, e però ne propone anche un altro. Cioè, esatto, io cerco di individuare il pezzo guasto e di proporre delle soluzioni. Prima dell'intervista lei mi ha fatto un esempio che credo sia molto facile, molto utile per far capire come, per esempio, incontra dei problemi e li risolve. Sì, allora, le avevo fatto l'esempio della storia dell'approssimazione dei campi elettromagnetici che sono, diciamo, quelli di cui che sono responsabili, per esempio, del funzionamento del telefonino. Vengono sostanzialmente, diciamo, servono delle antenne che propagano nello spazio e il telefonino li ricevono e funzionano. Tutto quello che stiamo facendo adesso, per esempio. Quello che stiamo facendo adesso, è generato da queste propagazioni. La storia ci ha mostrato come per più di 20 anni i calcoli di campi elettromagnetici sono stati fatti con degli algoritmi che davano delle soluzioni non corrette, proprio sbagliate. Mi pare che un problema centrale che riguarda proprio la forma delle antenne, che sono degli oggetti, è in tutti quei punti in cui l'antenna presenta degli angoli, quindi per esempio delle strutture acute, è lì che può cascare l'asino, no? L'esempio dell'antenna è molto peculiare perché è piena di angoli, di punte, giustamente, quindi è necessario fare in modo che queste singolarità geometriche vengano trattate in maniera corretta. Bene, io vi ringrazio, Annalisa Buffa e Alfio Quarteroni, e naturalmente complimenti per i vostri due premi. Grazie infinite. E dalla simulazione del mondo matematica io invece passo ad augurarvi una settimana reale molto piacevole. Ci sentiamo qui fra 7 giorni.